Un cordiale buon pomeriggio, ben trovati in sintonia di Prince Faster, questa è RadioCiverta.it. Insieme parleremo di musica, ma iniziamo subito, immediatamente, con la rubrica del venerdì, cioè il cinema. Radio Città Aperta. Vi do subito i contatti, 340-360-5299, sia SMS che WhatsApp, lo streaming su RadioCiverta.it. Buon pomeriggio Gabriele Vasquez, come va? Buon pomeriggio, molto bene. Ha proprio, come mai, molto bene? Ma perché è arrivata l'estate? Bella cosa, eh? Hai capito? Fantastico, fantastico. Finalmente l'estate. Andrai in vacanza fuori? Al mare, a mare ai monti? Guarda, forse farò qualche giorno in Slovenia. Beh, c'è mare lì, no? No, montagna e castelli. Io la mia dolce vita, a cui voglio tanto bene. È slovena? No, però ama montagne e castelli. Che vergogna. Vabbè, agosto si va al mare. Sì, agosto si va al mare. Ah, beh, agosto, ma ostia. Sì, quello che è Sabaudia. Sabaudia. Col capitano, andiamo col capitano noi. ospiti di Francesco Illa, ti sai com'è. Dunque, nella quarta puntata di Billions, una bella televisiva che a te non piace, ma... Non l'ho vista, non l'ho cominciato a vedere, Con lo so. Damian Lewis e Paul Giamatti. Entra a far parte della, insomma, della banda di The Billions James Hetfield e i Metallica. La colonna sonora di Billions da quel momento cambierà, perché c'è a un certo punto in questa quarta puntata proprio loro che prendono parte dalla California, credo. Dalla California? Non se non sbaglio, non lo so. Prendono un jet la mattina, andiamo in Quebec perché c'è l'unico concerto dell'anno che faranno i Metallica. Lo fanno in Quebec. E lui e i suoi tre vecchi amici di università prendono e partono con il jet privato di Axe, che sarebbe questo miliardario. Cioè, miliardario di più. Miliardario più. Si può permettere di comprare qualunque cosa. Ma perché è ricco? Dove vengono? Perché è uno speculatore finanziario, okay. Non è un broker, ma ha una. Cioè, un broker. È il gota, diciamo, il non plus ultra degli speculatori finanziari. Sa esattamente quando un'azione va su, quando una va giù, sa quello che fare. E insomma, e invece c'è un procuratore distrettuale che è convinto che lui queste notizie le prenda di nascosto, cioè le prenda furtivamente, insider trading. Invece lui in realtà non fa insider trading, perché non compare mai questa cosa finora nelle quattro puntate sono state trasmesse in Italia, perché la serie televisiva viene trasmessa a febbraio, è stata trasmessa a febbraio negli Stati Uniti, qui in Italia da giugno che sta andando in onda. In questa quarta puntata entra in campo, insomma, loro partono, arrivano in Quebec, lui è molto amico dei Metallica e si fa fare proprio una canzone, un pezzo nei camerini. Cioè, li chiama, fatemi sta canzone. E si confessa anche, perché sembrerebbe, da quello che si vede, che lui e James Hetfield siano proprio amici di vecchia data, insomma. E la cosa inizia così. Vediamo un po'. Ecco qua. Ehi, hey, Ace. Ne resterà soltanto uno. E adesso entra nei camerini con... Eccoli qua. Va tutto bene? Questo è James Hetfield. Sì, solo qualche rottura di palle. Sono venuto qui per staccare la spina, ma non riesco a staccare veramente. È presente quando cominci a sentire il bisogno di volare per davvero? Voglio sentirmi libero, dimenticare le stronzate terrene e volare in alto senza pensieri. Dovresti farlo, provaci. Ci riesci, James? Io suono, amico, io suono. 3, 4... Chi può parlare con X? Chiunque. E questo è quanto sono riuscito a prendere questa azione per lo PrinceFaster.it. Se vi capite, andate a vedere. Prima ho fatto una breve storia di tutti, insomma, i musicisti, Zappa, ultimo Bruce Springsteen in Liliana, su Lily Hammer. Eccolo qua, Zappa, nella famosa serie televisiva degli anni 80. Che facilità, ricordavo questa cosa, era comparso, ma che facilità. Zappa, è lo spacciatore internazionale di droga. Che si faceva chiamare, adesso ve lo dico, Mario Fuentes. Ecco. Vabbè, insomma, questo è quanto. Secondo... Lui era nella versione Jazz From Hell, cos'era? Sì, era il periodo Jazz From Hell, sì. Beh, tra l'altro, ripeto, se vi capita andate a vedere su www.princefaster.it, c'è insomma, una breve descrizione del tutto. Oh, detto questo, io andrei avanti, inizierei la trasmissione. Tu non l'hai vista ancora, Billions, eh? Però, questa settimana... Dovresti iniziare a vederlo, perché dai sondaggi che ho fatto, piace. Piace, vabbè. All'inizio è un po' così, sulla quinta puntata... C'è la svolta. Insomma, sì, ci sono delle... Prende più. Sì. Però, questa settimana... C'è stata notizia questa settimana, non possiamo farti vedere. No, purtroppo uno dei trapassi più clamorosi di questa annata di decessi. Brutto, brutto. È venuto a mancare Bud Spencer. Devo dire che mi sono messo sorpreso della quantità di reazioni. Non pensavo fosse questo tipo di reazione potente. Insomma, è stata particolarmente... Io ho letto addirittura un post accorato di Enrico Mentana. Enrico Mentana ha scritto un post su Facebook in cui parlava di... lo chiamavano Trinità. Ma noi tutti siamo figli di Trinità. Infatti, è veramente, veramente, veramente clamoroso, insomma... come spesso capita, poi non hanno motivato, ma ci vuole... Non è mai stato invitato in nessuna trasmissione, non ha mai fatto nulla, l'hanno sempre lasciato... Niente. Come era con... per Totò all'epoca, insomma, sì, quando era in vita. Capita, questo capita. Lui comunque poi erano tanti anni che aveva smesso, insomma, stava fuori dal giro da almeno dal 2010. Caro. Lui lavorava anche all'epoca, prima di diventare attore, negli Stati Uniti lavorava in un altoforno, credo. Sì, esatto. Ho letto un po' la storia. Ha fatto tutto, cioè, ha fatto tutto nella vita. Ha fatto pure il musicista, ha fatto una valanga di cose. Colonna, aveva scritto anche brani per, insomma, cantanti famosi di lei, abbastanza famosi di lei. Sì, aveva scritto parole di alcuni brani di Ornella Vanoni. Sì, e non solo, cioè la sua. Questo è l'inizio, io lo conobbi proprio in questo film. Invece lui era tipo il sesto, settimo film che faceva, addirittura il quarto con Terence Hill, però il primo in cui la coppia, diciamo, era veramente al centro di tutto, il primo in cui veniva data forma a quel format che poi hanno affinato. Che ti dirò, io capisco che poi vogliono Trinità, che è il quinto incasso di sempre della storia del cinema italiano, ha avuto un suo valore. Ah sì, ma questo non lo sapevo. Il quinto incasso di sempre, con diciamo, aggiustato all'inflazione. E, però devo dire che io poi sono più stupito dai film degli anni 80, sono più tecnici, più studiati, più... Sì, capito, non c'è più senza 4, e poi soprattutto da quel film senza nessun senso che altrimenti ce l'abbiamo, coloratissimo, tutte le recitazioni teatrali sparatine con Donald Pleasence, cioè un film strano, in cui loro inseguono la voglia di avere un buggy, cioè una cosa proprio... Non ha nessun senso, quello mi conquista molto, devo dire. Questo film ha una colonna sonora bellissima, girato, non ricordo da chi purtroppo... Da Enzo Barboni. Enzo Barboni, che poi anche lui c'era il nome d'arto, e Big Lucher. Big Lucher e punto B punto Lucher. Quali altri film hanno fatto insieme? Scusami, I quattro dell'Ave Maria. Ah sì, che fatto... non erano in co- cioè non erano, esatto, coppia. Esatto. Dio perdona, io no. Oggi a me, domani a te. E La collina degli stivali, se non sbaglio. Altro, è vero, altro bellissimo film. E poi lo chiamano Trinità. E l'anno dopo, continuano a chiamarlo Trinità. E poi è iniziata. Esatto, poi è iniziato con, mi sembra, Si può fare amico, il primo film, quello proprio, diciamo, ambientato nei tempi moderni, con loro due. Però insomma, io ripeto, sono quelli degli anni 80 che trovo più assurdi, più che mi conquistano un po' di più. Ma invece i Piedone? I Piedone pure subito, i Piedone vengono qua. Trinità è del 70. Io del 70. Nel 71 lo continuano a chiamarlo Trinità. Nel 73 già Piedone. Nel 74 altrimenti ci arrabbiamo. Quindi comunque Piedone inizia praticamente insieme ai film della coppia e va avanti insieme, nel senso che lui più o meno ogni anno, più o meno, faceva un film con Terence Hill e un film, da solo. Che poteva essere o Piedone. Guarda, o Piedone, Piedone lo sbirro, che è girato a Napoli, è un film molto bello, tra l'altro credo che sia anche piuttosto lungo. Non mi davo questo dettaglio. Sì, per 1:50, diciamo che per gli standard dell'epoca è molto più lungo, vedo, sono tutti 90 minuti. Anche se ci sono qualche, insomma, delle battute, eccetera, è proprio un pizzottesco, è anche piuttosto violento. Sì, no, perché è di Steno, comunque era un regista con tutta una sua idea. Poi, chiaramente, gli sceriffo molto extra poco terrestre, sempre di quegli anni, sempre in quella maniera. E diciamo che tutto quanto è finito più o meno nell'85-86. Poi, se vi ricordate, fecero anche 10 anni dopo, nel 94, fecero Botte di Natale, tentativo di tornare a fare canto malissimo, sì, era fuori tempo massimo. E lui fece molta televisione, fece un detective extra large, una serie di fiction, fino a diciamo al 2000, 2000 e qualcosa, in cui le salse hanno cominciato a diradarsi. Cioè, invece Lorenzo Hill ha sfondato con Don Matteo, capito? Don Lorenzo Hill invece ha imbroccato questa cosa con Don Matteo, che fa dei numeri pazzeschi in televisione. Sì. Comunque una cosa, pensa, mi raccontavano delle persone interne alla Rai che con l'arrivo di Renzi e il cambio della Rai c'era la fissa di basta, via tutto il vecchio, nuovo, è solo cose nuove. E la società che produce Don Matteo, che è molto potente, perché chiaramente perché produce Don Matteo, e anche fa tutte le cose dei santi anche, capito? Quindi insomma è proprio potente, le vite dei santi, le vite dei papi, quelle fiction lì, le produce tutta questa specializzata proprio. Sì, è una società proprio religiosa, non so come dire, che è specializzata in roba religiosa. Ah, sì, certo. Erano molto preoccupati di questo vento nuovo, vento di novità. Quando è andata in onda la prima puntata di questa stagione che è ora in onda, di Don Matteo, e ha fatto il record di sempre, sono entrati proprio in Rai come a dire: e adesso non ci rompete il caso. Nuovo i miei coglioni. L'unico loro problema è, io so che si stanno attrezzando per il dopo Terence Hill, perché la roba si legge tutta su Terence Hill, proprio ufficialmente. In che senso? Terence Hill è Nino Frassica. Ah, sì, certo. Levi Terence Hill crolla tutto. Immagino. E loro si stanno attrezzando per... Perché può morire? Ma a un certo punto, un'età, potrà voler smettere a un certo punto, cioè, sarebbe anche legittimo, non può durare per sempre. Sono 11 serie che fanno già. Decima. Adesso controllo, ma se non sbaglio è la decima. Insomma, loro si stanno attendendo perché possono. C'è un problema di spin-off, dovrebbero andare con lo spin-off sul personaggio Frasca. Da vedere. Va bene, se volete scriveteci su 340-305-29 sia SMS che WhatsApp. Allora, Gabriele, parlato delle serie televisive, chiuso l'argomento, abbiamo salutato Bud Spencer, non come vorremmo, vediamo se riesco a prenderlo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Nell'immortale voce del doppiatore Glauco Onorato. È una lunga storia. Aveva una taglia, ma secondo me i messicani hanno sempre torto. Tu cosa hai da dire? Niente, si è difeso, sono stato testimone al fatto. No, signor, lui non c'era. Scrivi due righe e mandalo a casa. Mia sposa era al fiume, signor, a lavare. Vabbè, insomma, che film hai visto questa settimana? Oh, sono un po' di film interessanti, un po' di film interessanti, ti dirò. Allora, innanzitutto esce Cattivi vicini 2, che a me piace molto, perché già il primo Cattivi vicini era molto carino, è quella commedia con Zac Efron e Seth Rogen ha un figlio appena nato, gli vengono a bere vicino una confraternita di ragazzi al college che vogliono fare un caso incredibile, e lui invece, volendo per la bambina piccola una vita tranquilla, ingaggia con loro una guerra l'ultima cosa per riuscire a cacciarli. Ora, in così quella hanno fatto praticamente la stessa identica cosa, aumentando solo le dimensioni, cioè il protagonista, che è sempre Seth Rogen, ha un secondo figlio, vuole cambiare casa, ma non riesce a venderla perché accanto a lui è venuta a vivere una confraternita di ragazze che vogliono fare dei party ancora più grandi. La cosa figa di questo film, non so, che è molto divertente, a me piace, fa molto ridere, poi perché, avendo, come dire, questa volta come nemico questa confraternita di sue ragazze, affronta in maniera molto piccia e molto brutale l'ossessione dei nostri per il sessismo, perché è tutto sessismo, per cui ogni volta che ti metti contro con una persona di sesso femminile è sessismo. Sì. E questa cosa non vale per gli uomini, invece possono essere maltrattati. Lo fa con molta intelligenza, perché poi riconosce in realtà i personaggi femminili una loro complessità, non è un film maschilista, è un film satirico, e tra l'altro, ripeto, a me mi ha fatto molto ridere. Si chiama Cattivi vicini 2. Leggo che Peter Jackson è al lavoro su un misterioso progetto per Steven Spielberg. Di cosa si tratta? Seppure misterioso, tu dovresti saperlo. Sono importante, ma non come Steven Spielberg. Cioè, per dire una parola, Peter Jackson è cresciuto con Steven Spielberg. Lo stesso è stato Peter Jackson a dare i soldi a Spielberg per fare Ten Ten, il film animato. Per cui, come dire, paradossalmente ha lavorato per lui, che è incredibile a dirsi. E adesso è come se Spielberg gli ricambiasse il favore, però non vogliono dire nulla su questo nuovo progetto. Io infatti non so che sia. Ma questo GGG, il grande l'ho gigante visto a Cannes, è un favolone, è proprio il classico film di Spielberg, è una grande favola, secondo me è molto bella, a me è piaciuto veramente tanto, però insomma è una grande favola su una bambina che viene rapita da un gigante, però buono chiaramente, che la porta alla terra dei giganti, e lei scopre lui per essere un gigante picco. Cioè, sono molto grandi giganti di lui. E lo maltrattano continuamente, e insieme cercheranno di rimediare a questo altamente parte dei bulli che lui subisce. Subisce il bullismo dei giganti, il bullismo del gigantismo. E lei, che è piccolissima rispetto a questi giganti ancora più giganti, invece gli darà una mano, che è una cosa divertentissima. Mentre Pacific Rim 2 esce il 23 febbraio nel 2018, prego, la recensione. Ah, prego. Oh, a me il primo non era dispiaciuto, io sono contento. Bello, no, bello, dei robot, il film dei robottoni che combattono contro i Mega Godzilla. Sì. Era un film molto intelligente, era diretto da Guillermo del Toro, ricorderete, era tutto ambientato di notte, perché non avevano i soldi per gli effetti speciali buoni. Cioè, quantomeno dicevano, con questi soldi che abbiamo possiamo farli buoni, però dobbiamo ambientato di notte, che se vede poco, se no, meno, esatto. Per cui è ambientato di notte con la pioggia. Però questo gli dà una grande vitalità, l'ho rendito più molto figo, mi è piaciuto. Aspetteremo, aspetteremo. Mentre questa settimana sono usciti, dicevo, film al cinema, tra i tanti, Girl Walks Home Alone at Night. Ah, questo è un film veramente strano. Allora, ve lo dico subito. Sheila Vance. È un film iraniano, difficilissimo, acque nero e risate, vabbè, lo so, lo so. Però, guarda, telecamera. Sì, esatto, è così, è così. Però, devo dirvi una cosa. Questo ve lo dico così, ve lo vedete nella vita. Ah, un... A me il film non è piaciuto tanto, cioè io non lo consiglio. Però, devo dire, ha un'idea che mi fa morire, che trovo fantastica. È la storia di questa donna iraniana, una ragazza giovane iraniana, che a casa sua ascolta i dischi, si veste un po' rocchettara, insomma, molto libera. Chiaramente, quando esce, invece, deve stare col Chador, che è quel velone gigantesco. Ma lei è un vampiro. Ah. Lei è un vampiro e gira di notte con questo velo, quello che ti lascia solamente gli occhi scoperti, come fosse il mantello di Dracula. Cosa è fighissima, è una cosa l'idea è bella, no? Sì, esatto, il film però chiaramente poi insomma puntata alta, è un film iraniano Walter, intellettuale. Walter ci scrive: guardate come Tullio Solenghi tratta Bud Spencer al premio alla carriera insieme a Terence Hill, da prendere la schiaffa Solenghi, ovviamente. Ciao Bud, grazie a tutti. Nel 2010 lo presero questo premio alla carriera Davide Donatello, la carriera all'epoca di Davide Donatello, presentava Tullio Solenghi, e quell'anno infilò una serie tale di gaff, di cose, addirittura premiò una cinese, un'attrice cinese, era la protagonista di un film che si chiamava Io sono lì, che era un film italiano con una cinese. Lei, che non era una cinese italiana, cinese, che dopo ha sposato uno dei più grandi registi di Cina, adesso fa i film che vanno a Cannes, per dire. Quindi una signora la accolse... Bella? No, la però brava. La accolse... Però simpatica. La accolse parlando con le L al posto delle R. Ma veramente? Capito? Proprio, no, ufficialmente la no. Fa ridere? Penso di sì, pensavo a ridere. American Ultra, un altro. Allora io dice Ultra perché è italiano, giusto? È Ultra, ragione, la versione italiana Ultras, è Ultra, che chiamano, li chiamano Altras. Ultra, sì. Altras. Giusto, giusto. Allora, American Ultra è un film indubbiamente carino. Allora, perché unisce, sì, un po' De Niro, un po' Jason Bourne, perché è la storia di questo fattore americano che lavora come commesso in un negoziato terribile, insomma, cioè, veramente uno sfigatone pieno di fobie, che a un certo punto viene attivato. Cioè, arriva uno della CIA nel negozio, gli dice delle parole che lui non capisce, ma è come se arrivasse e diventa tipo Jason Bourne. Non ha capito delle mosse istintive da gente segreto, quindi finché lui non sa dire cosa fare, quando si trova in pericolo, sopra di saper forzare la cura, di saper combattere, ammazzare tutto, 10 esatto, persone. Fa delle cose incredibili, perché è molto divertente, è anche molto da ridere, quindi non è serio come Bourne, quindi fa cose incredibili. Lancia la padella in aria, spara sulla padella, il proiettile rimbalza sulla padella e colpisce quello che è dietro di lui. Fa delle cose... Ah, è una ecco, finiamo questa. Fa delle cose senza senso e fa ridere, appunto, poi c'è tutta una grande cospirazione della CIA dietro questa cosa, che lo vogliono fare fuori, che è troppo pericoloso. Allora lui in realtà è un fattone, poi nella pratica, che si va a nascondere dal suo spacciatore. E, però io devo dire, mi aspettavo di più dalle persone che l'hanno fatto, perché chi l'ha scritto è Max Landis, figlio di John, che già ha scritto Pronico, molto bello. E chi l'ha detto è Nino Ritadeh, che è questo italiano che lavora in Hollywood, che ha fatto Project X, che secondo me è uno dei film straordinari degli ultimi anni, quel film in cui i protagonisti inizia come i normali film dei college da ridere, cioè i protagonisti vogliono organizzare una festa gigantesca quando i genitori non sono a casa, tipico. Solo che man mano che va avanti questo film monta, questa festa diventa grande oltre ogni livello, diventa talmente immensa, con talmente tanta roba, talmente tante ragazze nude, gente che arriva, che loro finiscono, cioè solitamente questi film distruggono casa, loro danno fuoco a un intero quartiere per una festa, arriva la polizia a cavallo con gli elicotteri e loro cominciano a dare guerra alla polizia per una festa, non si sa perché. È un film che a me è piaciuto tantissimo, per cui mi aspettavo che questi due insieme facessero qualcosa di più, invece questo è un film solamente noi, diciamo. Grazie per quello che stai facendo, è una roba seria, questo cazzo di proposta di matrimonio, sei un negro sensibile, io l'amo, devi dare tutto quando ami così una persona. Ti va un acido in un locale a luci rosse? No, sono le 8 del mattino. Caro ignorante, l'insieme di Mandelbrot è attivato. Ecco qua, ieri è stato violato. Sono le parole di una canzone? State facendo l'auto? Che succede? Ho ammazzato due persone. Fantastico. Avevano una pistola e un coltello e mi hanno aggredito. Chiamato la polizia? No, non l'ho chiamata. Sono pieno di erba e funghi dentro la macchina. Com'è successo? Non lo so, ma sto impazzendo, te lo giuro. Mi sta per venire un attacco di panico. Oh. insomma, ultima puntata di Cellulite e Cellulite, poi ci risentiremo a settembre. Altri film, basket. Allora, esce Il piano di Maggie, che è un bel film per il pubblico intellettuale di questa radio. È un film newyorkese, una commedia sofisticata, i cui protagonisti sono dei professori universitari. Lei è Greta Gerwig, che è un po' la nuova attrice importante della commedia americana. Ci sta il grandissimo Ethan Hawke. E devo dire, è un film... devo ammetto che mi è piaciuto. È un film molto carino, su una donna che vuole un figlio, ma senza un uomo. Quindi fa l'inseminazione artificiale, proprio per insegnarsi artimente. Arrivano gli amici della conosce questo professore universitario che è già sposato con Julie Moore, quindi ci saranno un po' di triangoli amorosi, però insomma è un film molto ben scritto e devo dire mi è piaciuto proprio, è per il pubblico sofisticato di questa radio e che è tanto la maggioranza. Esatto, quindi anche Tokyo Love Hotel non l'ho visto, film giapponese, ma ho visto Dragon Blade, l'avevamo accennato l'altra volta. Blade, la battaglia degli imperi, ufficialmente in lizza per il premio di miglior film dell'anno. È una cosa terribile, è veramente film che si stinguono da quanto è brutto. È la storia di una legione romana che incontra dei cinesi sulla via della seta, e già storicamente è risibile oltre ogni dire. Non vi dico poi, è fatto da un cinese, non vi dico il pressappochismo di come sono rappresentati i romani, che fanno lo skate sugli scudi, che vanno in giro con l'armatura quella da inverno nel deserto, che a un certo punto lui si ricorda di Roma, quindi si vede Roma antica e sembra il Partenone, capito? Sbagliata, cioè non c'è una cosa giusta, c'è un bambino cieco che canta e canta i canti gregoriani, non ha niente a che vedere con l'epoca degli antichi romani, cioè una cosa proprio chi più ne ha più ne metta, veramente totalmente fuori dalla grazia di Dio. Ha guardato su Wikipedia, ha fatto insieme cose e appunto ha una serie di assurdità esilaranti, come il fatto che questi protagonisti incontrano, no, un antico romano, un cinese, e già io professore italiano già parlano la stessa lingua. Poi a un certo punto arriva un altro cinese, ma quella è licenza poetica, però poi arriva un altro cinese e tra cinesi parlano in cinese sottotitolato. Cioè, allora scusa, cioè, tu in che lingua parlavi? Si vede che il cinese conosceva il romano, conosceva il latino, però tutti il latino, tutti i cinesi conoscevano il latino, tutti quanti, c'erano scuole in Cina di latino, si imparava il latino, insomma terribile. Più che altro la cosa brutta è che ci sono attori americani come John Cusack, come Adrian Brody, e c'è Jackie Chan, e Jackie Chan non è all'altezza del proprio mito, e questo è fastidiosissimo. Come da programma stanno almeno 10 minuti, andremo in croce. Bel lancio. Una battaglia epica tra due grandi potenze mondiali. Ma l'impero romano si scontra niente. Forse dovremmo attaccare subito finché ne abbiamo forze. Avanti, soldati! Legione! Jackie Chan. Il candidato al Golden Globe, John Cusack. Il premio Oscar, Adrian Brody. Ma è fuori ruolo John Cusack qui. Totalmente, dovrebbe fare un duro, ma dove? Alta fedeltà mi viene in mente. Sì, capito. Fedeltà, ma dai. Ma che è possibile sta cosa? Chi si è diretto da Jackie Chan questo film? No, Jackie Chan è molto più bravo di così, piazza da un porcone da Daniel Lee, ma veramente. No, con un uso assassino reale, veramente. Oggi sembra talmente negativo, anche insomma hai detto buone parole su un paio di film. No, sei vero, giusto. Ho capito, però. Ratchet & Clank. Ah, Ratchet & Clank. Sta al cinema solo per pochi giorni. È un cartone animato che è tratto dal videogioco Ratchet & Clank. E devo dire che, essendo un videogioco di ultima generazione, le parti di animazione, quelle di racconto che stanno nel videogioco, sono assolutamente identiche a questo film. Cioè, la qualità con cui è stato fatto il film è la stessa del videogioco, altissima. Imbastisce una storia di finzione sui personaggi. Insomma, veramente fatto in maniera superficiale. Molto così, un tanto al chi, la solita storia, senza novità, senza niente. Ma ci metto a fare un videogioco? Per esempio, Fallout 4. Ma anni, 4 anni. Sì. Con dei team chiaramente immensi che ci lavorano, ovviamente. Quanto vende più il Fallout 4 che io ho giocato e ancora non ho finito? Quindi vediamo. È un'industria poi, perché fa il Fallout. Assolutamente. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, sì, questi giochi immensi. Qua quanto. 750 milioni di dollari il primo giorno. Non immaginavo cifre così imponenti. Non c'è scritto poi adesso a quanto sta. Però penso che ti può bastare come risposta. 750 milioni il primo giorno. Quindi parliamo di miliardi. Sì, certo, ovviamente. Infatti io mi ricordavo che Grand Theft Auto 5 ha fatto 1 miliardo nel primo giorno. Mi ricordavo questa storia. Porca. useranno dei computer mostruosi per fare le movimentazioni. Ma sostanzialmente ne fanno come per l'animazione, ne usano tanti. Cioè, infatti controllano 100, 200, 1000 calcolatori che hanno un software che fa sì che loro si dividano il lavoro e procedano in parallelo. Quando dicono, per esempio, che nei film della Pixar, per fare un secondo di un film Pixar ci vogliono 3 anni, chiaramente, è perché, diciamo, calcolano il tempo per ogni computer, però in realtà quei 3 anni diventano una giornata e 1000 computer lavorano in parallelo, certo, sostanzialmente. Certo. Se lo dovesse fare un computer solo ci metterebbe 3 anni. E più di noi chiaramente facciamo la stessa cosa. Vabbè, prossime uscite, perché abbiamo c'è Nahid. No, non l'ho visto, non un l'ho film visto. Iraniano, non so, è un altro non so, film iraniano. Siamo all'estate, non solo siamo all'estate, siamo all'estate durante gli europei. È proprio tempo zero, perché lui c'è nel Montechino, c'è te che stanno maluccio per tipo romano, era vedi. Bisogna essere sempre vispi e attenti, certo. Vispi e attenti, visto tante volte. Reattivi. Infatti sto vedendo le uscite della prossima settimana. La quelle sono quelle passate, eh. La prossima settimana esce. Ah, adesso l'unica cosa che va bene in questo periodo sono gli horror. Per cui come tutte le estati fanno horror. Esatto, ricordo, quindi questa settimana è primo al box office italiano un horror. Tra l'altro molto bello, mi è piaciuto un sacco proprio, The Conjuring 2. Che l'altra volta tu mi avevi chiesto com'era, io non l'avevo visto, ma sono andato a vederlo, perché io sono andato a vederlo. E è bellissimo The Conjuring 2, non solo mi piace molto, insomma, come è girato, cose, ma anche delle scene di fenomenali proprio belle, che mi danno un sacco di soddisfazione. E settimana prossima esce un horror che, insomma, ci ha messo un po' a arrivare in Italia, lo aspettavamo da tanto, perché si è fatto notare un po' in giro per il mondo, ma chissà perché nessuno lo comprava per una distribuzione da noi. Si chiama It Follows e ha una storia che è forte. Cioè, la storia è: c'è qualcosa che noi non almeno, diciamo, io vi parlo della prima parte del film, ovviamente. C'è qualcosa che segue le persone. Cioè, questi personaggi sono seguiti proprio da qualcosa. Forse qualcuno che vedono arrivare. Loro possono scappare, possono andare dove gli pare, possono andare all'aereo e cambiare stato, cambiare continente e quindi allontanarsi da questa cosa. Ma prima o poi arriverà. Se io cambio continente ci potrà mettere 10 anni ad arrivare a piedi, ma arriverà. Ma che cos'è? Non si sa, perché noi vediamo i personaggi e dicono oddio sta arrivando e scappano lontano. L'unica maniera di liberarsene è scopare con qualcuno, e questa persona seguirà quel qualcuno con cui è scopato. Ah, quindi gli attacca al esatto. Una specie di virus. Esatto. Se ti raggiunge ti fa fuori. Aia. E scala indietro, cioè ti ritorna, ritorna a te. Esatto, quindi non te ne puoi liberare. La cosa è molto forte, perché noi sappiamo che negli horror da sempre chi fa sesso muore, l'horror classico. Sì, è vero. Quindi questo qui è come se prendesse un po' quella regola, la estremizzasse. E chiaramente adesso è inutile che ve lo dica, a un certo punto per fare sì che il film va avanti, qualcuno vorrà rompere questa catena e adesso basta. Esatto. Certo, vediamo. Non vedevo l'ora di essere adulta per avere un fidanzato. Immaginavo sempre mentre ero mano nella mano con un bel ragazzo. Jay, mi dispiace. Aiuto! Non ci crederai, ma devi ricordarti quello che ti dirò. Questa cosa... Aiuto! Ti inseguirà. Qualcuno me l'ha trasmessa. E io l'ho passata a te. Ovunque tu sia, è qualcuno che cammina dritto verso di te. Quello puoi fare è passarla a qualcun altro. Un'allegoria ad un male, un virus trasmissibile, esatto, sessuale, le malattie venere. No, è tostissimo, però è fatto molto bene. Guarda, un film che ha preso premi ovunque nel mondo. E non è molto di paura. Cioè, se volete proprio paura, andatevi a vedere The Conjuring 2. Quello proprio, tornate a casa spaventati. Questo è un film di tensione, un film con un sacco di idee. Insomma, è un horror forte. Da chi ha iniziato questa storia? Ma senza spoilerare troppo, si vede. No. Allora, non possiamo dirlo. A lungo nel film avrete il sospetto, ma si stanno inventando tutto. Perché noi non vediamo proprio niente, non abbiamo neanche delle prove, no? Dobbiamo fidarci. Non... A un certo punto, però, sì, qualcosa accadrà. Qualcosa mi farà pensare, ah no, ok, cioè, esiste una minaccia. Cioè... È brutta. Non voglio dire. Ah, non si può spoilerare. Invece nel The Conjuring 2 ci sta la suora malefica, una grande trovata, hanno avuto questa trovata, la suora maledetta che infesta le... Guarda, l'hanno fatta veramente bene. Dal visionario sì. Regista di Brasile, l'esercito dei 12 scimmie, Terry Gilliam, film sul futuro che ci attende. Tutti si stanno arricchendo, tutti tranne te. Qual è il problema? Noi stiamo morendo. Noi chi? Noi due. Ma io vedo una sola persona. È davvero un progetto che scotta. Teorema zero. Zero deve corrispondere al 100%. Gli da 2 settimane. Non abbiamo molto tempo. O almeno lei non lo ha. Lei mi ha parlato della paura della morte, paura di vivere, degli spazi aperti, degli spazi al chiuso. Ma dove ci troviamo? È tutto nella tua mente. Qui siamo al sicuro. Zero deve corrispondere al 100%. Ma cosa ti è successo? Ci siamo sentiti vivi. Tutti si sentono vivi, ok? Non ho mai avuto la sensazione che tutti nell'universo sono parte di un gigantesco scherzo. Hai commesso davvero un grande errore. Noi non le crediamo. Ma perché lei vuole per forza provare che il tutto è per niente? Vieni con me, ti prego. È un film fantasy questo Zero Theorem. Una fantascienza di Terry Gilliam, il grandissimo autore di Brasile, di Paura di Dio a Las Vegas, Starland, la leggenda del pescale, insomma, un grandissimo, ha fatto questo film nel 2013, quindi 3 anni fa, ci arriva solamente oggi nessuno, perché lo stanno buttando al cinema adesso, esatto. In realtà è ovviamente riuscito, però voglio dire, cioè, non vi sarò più a mentire, non è pienamente riuscito, però se siete fan della roba che fa Gilliam, ci sono un sacco di cose troppo carine, ovviamente furbo, intelligente, che mette questi film di fantascienza, un'ironia, per quello che noi, per gli stereotipi della fantascienza di Marvel, che è molto soddisfacente, a me, ma, okay, non è, alla fine, se ci andate non aspettando vi troppo, vi divertiva. Lo sapremo. Ho fatto di tutto per proteggere la mia famiglia. Oggi ho spinto mia moglie. Ora tenete il figlio. Moladan, c'è bisogno di un'altra cosa. Poi già spinoverò nella produzione della stampa di Andarcina quando il dietro sono dispiaciuto di questo. Perché veramente. Da Cinecorte, parliamoci chiaro. Lo so, però questo, dai, ho visto già 20 minuti di film. Non ci siamo. Vabbè, altri film, questi usciranno insomma tra un po'. Sì, esatto, come stanno gli ultimi anni, quest'estate usciranno anche film importanti, perché come diciamo spesso, l'estate è molto tanti, e siccome esiste l'idea, come vedete, sempre qualcuno, è stato di più lassù, devo tutto contemporaneamente, quindi andiamoci in mezzo d'agosto, vedremo in mezzo alle vacanze estive, Star Trek Beyond, ovvero nuovo Star Trek di nuova generazione, Ghostbusters, quello tutto femminile, vedremo... Molto come pochi. Sì, io già l'ho visto. Vedremo Il Drago Invisibile, il nuovo da Disney, con film grande. Vedremo Suicide Squad, film sui TV, i villain dei supereroi, si mischiano insieme con Will Smith, Margot Robbie, un sacco di torri. E vedremo un altro molto importante, Jason Bourne, il 1 settembre, con il Jason Bourne originale e anche il regista originale, quindi voglio un ritorno agli origini. Filmone. Mio padre è entrato nella flotta stellare perché ci credeva, io per sfida. L'hai fatto per vedere se eri in gamba come lui. Hai cercato per tutto questo tempo di essere tuo padre. E ora ti chiedi che significhi essere te stesso. Siamo stati travolti da qualcosa mai vista prima. So che questo non è il mio ultimo equipaggio, ma è il mio ultimo rapporto come capitano della nave stellare Enterprise. E colonna sonora imponente, bro. Sì. Lirica da morire, bro. Fa un po' ride. Fa un po'. E poi esce Escobar con il grande. Con Benicio del Toro. Vediamo come esce Escobar. probabilmente molti avrete visto, molti avranno visto la serie, televisiva. Esatto. Infatti è curioso vedere che farà un film nel momento in cui una serie televisiva l'ha fatto un buon lavoro. Mio zio, io lavoro per lui. Buongiorno, signor Escobar. Chiamami Pablo. Lui è un grande. È come una figlia per me. Siamo felici di sapere che hai trovato un bravo ragazzo. Uno dei più grandi dottori del mondo. Lui era in paura di... Come le persone tossico, maledetto. Hai capito? Hai detto che ero come un figlio per te. Ci sono delle genere. Per noi sopravvento devi accettarle. E come vuole aver ucciso quelle persone quando... Chiudiamo il cerchio, basta. Io ci sono. Ma io sarai tutto esteso. Ricordo. Ricordo tutto. Ricordare tutto non vuol dire sapere tutto. Raccontami. Jason Bourne, eccolo qua il trailer che ci siamo visti. Noi, voi l'avete ascoltato e basta. L'avete intuito, molto più bello. Va bene, mi pare sia tutto questo per questa settimana e ci risentiremo a settembre. Come sempre col grande puntata. Festival di Venezia, come sempre, questo inizio stagione veneziano molto bello, molto malinconico ma molto bello. Tu andrai, ovviamente. Mi hanno invitato anche questa. Una firma così. Sì, esatto, mi hanno riservato il solito sottoscala. Vabbè. Quest'anno voglio dormire nella sala del cinema. Quando la spengono tutto, mi tirano una copertina. Tracca, mi mettono lì. Dal proiezionista. Sì, dormo la sala brandina dal proiezionista. Ci sono ancora i proiezionisti, sì. Eh sì, certo. Per forza. Non è che anche se è digitale, comunque qualcuno deve... deve farlo. Anzi, i proiezionisti dicono che è molto più complicato. Cioè loro dicono sostanzialmente la pellicola è pellicola, no? Per cui può avere un po' di problemi, però è un affare, no? Che se tu lo ritrovi tra mille anni e diciamo che per una serie di fortune è conservato bene, tu la stendi, ci passi la luce in mezzo e quello proietta e tu vedi. Cioè, c'è poco da fare, è così. La roba digitale invece sono file, dischi rigidi, cioè... insomma, ci possono essere dischi rigido corrotto, le chiavi digitali, perché sono tutti protetti, chiaramente. Per cui ovvio. Ti devono sbloccare la chiave digitale, se no non si vede, se non arriva in tempo non funziona, è perché l'audio non c'è, capito? Cioè, è una roba molto più complicata da gestire della pellicola. Tendono sempre però ad abbassare la luce, a tenerla bassa e non far vedere bene. Quello più che altro il 3D, guarda. Poi vedrai quei proiettori di nuova generazione stacca per cambiare la tecnologia. Noi comunque sono le lampadine ancora, la lampadina di Edison. Mentre invece ora si parla sempre di più di proiezione laser. Cioè la cosa che proietta è un laser e quindi consuma molto di meno. Devi cambiarlo molto meno spesso e poi e ti rende molta più luce. Per cui insomma, questa cosa dovrebbe cambiare. Vabbè, speriamo. Basket, noi ci sentiamo a settembre e ti auguro buone vacanze, buonissime vacanze. Divertiti in montagna, ai laghi. Bello, Sai perché mi piace? Cioè, perché Dio santo, per le passeggiate. Che belle passeggiate. Facciamo le passeggiate di pomeriggio in montagna. Cristo santo. Con il bastone in mano. Madonna, andate per i boschi. Sai la cosa che mi dà fastidio delle passeggiate? Ogni volta che incontri qualcuno lo devi salutare. Non mi chiedere perché, ci si deve salutare per forza. Ah sì? Cioè, questa cosa mi rottura perché ciao, in montagna ciao. Non ci sono sempre messa. Ciao, continuamente. Continuamente, quando tu quando giri in strada in realtà non saluti nessuno, ma no, giustamente, certo. Ma chi te conosce? Ma c'è una, che ne so, un galateo della montagna. Ah sì? Non lo so, è così. Io non salutavo nessuno, la mia ragazza se l'è presa. Devi salutare, si saluta in montagna. Altri bagnanti al mare che fai? Saluti tutti, buongiorno. Certo, lo puoi fare quando stai allo stabilimento, che ne so, a Rimini conosci tutti e saluti il bagnino. Signora Marisa, buonasera. Nonna Evelina, come va? Che si sventolano al mare anche quest'anno qui. La pensavamo morta e invece ce l'ha fatta anche quest'anno. Mi sto strangolando, scusate. Va bene Vasquez, ci sentiamo la prossima, cioè a settembre, altro che la prossima settimana. Grazie e a settembre. A settembre.